24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Con questa opposizione nuda e cruda ti ritrovi tu nudo e il paese crudo con, come stava prima. Questa l'abbiamo capita a metà. Com'è che con l'opposizione nuda e cruda ti ritrovi tu nudo e il paese crudo? Mamma mia. Con questa opposizione nuda e cruda ti ritrovi tu nudo e il paese crudo con, come stava prima. Come stava prima. Ma che ci azzecca, è tornato Di Pietro, dove l'abbiamo intercettato, su Sky. Va bene, buongiorno cari ascoltatori, mentre qui come al solito rovescio l'acqua, combino dei danni. Sono le 6 e mi guardano e ridono, no? C'era il tappo, quindi l'acqua. Vabbè, oggi un inizio un po' impazzito, ma siamo qua, 24 mattino, buongiorno. 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi, se siete svegli fatecelo sapere. Sicuramente sono svegli i nostri due primi frequentatori del Parlamento, che può aprire dopo aver salutato... Vabbè, dopo li saluto. Miriam Lucchetti, in redazione... Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori. Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Vabbè, e niente, non lo digerisce. Strozzate col caffè brutto cretino d'un Milan. Vabbè, ho capito, sì. Questa l'ho capita meglio della frase di Di Pietro, eh? È abbastanza chiara. Voglio salutare Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Buongiorno, ben svegliato. Buongiorno, a te da fastidio che beviamo il caffè della Minetti, no? No. Ho smesso da un sacco di bere il caffè. Vabbè, ho capito. Vabbè, Maurizio Tortorella, chissà se questa settimana sia un po' passata la rabbia. Sì, sì. No, ma guardami, anzi, mi scuso. Non devi scusare. No, è che i grillini mi fanno venire torticari. Settimana scorsa sei un po' arrabbiato. Allora ti presento uno che non ha problemi di fargli venire, che gli vengano i due minuti e dice quello che gli passa per la testa. Alessandro Giglioli dell'Espresso, buongiorno. Buongiorno a tutti. Quindi abbiamo unito Panorama e l'Espresso. No? Abbiamo fatto il governo delle larghe editorie. Wow. Speriamo che siano larghe, perché dico che i tempi sono stretti. Condivido. Allora. L'avete capita la frase di Di Pietro? No, nudo e crudo. Se volete ve la posso fare anche risentire, Giglioli? No, non... Ma io ho capito meglio quella della tua ascoltatrice. Dai. Sì, quella era un po' più chiara, sì. Effettivamente era un po' più chiara. Allora, prima di parlare di politica, vi voglio far sentire che cosa? Si dice sempre, ma le sentenze non si devono rispettare? Questa è la frase, il mantra che viene ripetuto. Allora, vogliamo parlare di un caso che sta già facendo molto discutere, il caso Cucchi, no? Quello della sentenza. Ieri ci sono state anche, quando ci sono state le assoluzioni per alcune condanne per i medici, ma assolti i poliziotti, assolti i medici militari, eccetera. In aula si è successo un po' di putiferio, un po' di proteste. Insomma, al solito parapiglia, i familiari che hanno urlato, qualche spintone ai giudici. Allora, per carità, qua Maurizio, nessuno di noi, io non ho seguito il processo, per esempio. No? Io sì, abbastanza. Tu hai seguito il processo. Cioè, che dobbiamo dire? Certamente, come dice la mamma, Ilaria Cucchi la conosciamo, una persona molto battagliera, eccetera. Sì. La mamma, oggi intervistata al Secolo XIX, dice: una cosa è certa, io mio figlio è entrato in carcere vivo ed è uscito morto. Ecco, questa è una cosa inaccettabile, che non deve succedere in uno Stato civile. Questa è una premessa fondamentale, ed è vero, purtroppo i morti in carcere sono tantissimi, i morti per suicidio sono sconvolgentemente tanti, ma sono morti anche quelli, sono tantissimi e troppi ovviamente quelli che muoiono per cause accidentali e non mai chiarite. La protesta di ieri in aula sicuramente non è quella, però va detto che i familiari di un morto in qualche maniera hanno delle attenuanti, minori attenuanti hanno altri che protestano per motivi appunto di scelta ideologica, direi sì. Così. La sentenza è evidente che ha preso per buona la relazione dei periti del tribunale. Difesa, certo, è andata anche oltre, pare che sia andata anche oltre, sia sì. Stata ancora più innocentista, diciamo, rispetto a quanto... Però quella perizia, che se non ricordo male uscì venne depositata nel dicembre del 2012, era molto, molto forte. Perché tanto stabiliva, ed fu fatta da un ospedale di Milano, la Corte d'Assise di Roma la chiese a un ospedale da tecnici milanesi, ma medici, non mi ricordo più se fossero 5 o 6, ma credo 6, tutti appartenenti a una stessa struttura che adesso non ricordo, e in quella perizia era scritto che le cause delle percosse, cioè degli traumi, così, non erano appunto chiaramente da attribuire a percosse o a una caduta, ma sicuramente c'era stata una gravissima negligenza da parte della struttura medica, da parte degli infermieri, perché Cucchi era morto per fame. Sì, per fame. Ma infatti, quello che però... Per inanizione. Sì, cioè, esatto. Quello che mi colpisce, non so, Giglioli, è che ci siano giornali, per carità sono opposizioni, è vero, non è che bisogna fare gli asettici, le sentenze non si commentano, che scrivono, per esempio oggi il Corriere, un processo senza giustizia, Cucchi, questo è il titolo del Corriere della Sera, che è un po' la linea di tutti i giornali, cioè a dire questa sentenza è uno scandalo, per tradurla in maniera molto pratica. Perché, Alessandro? Allora, intanto, secondo me, dividiamo due cose. Le sentenze si rispettano sempre, nel senso che si rispetta la buona fede dei magistrati nel fare la sentenza. Un conto è dire un magistrato ha fatto quella sentenza perché è corrotto, perché è politica, un altro conto è dire che i magistrati sicuramente hanno lavorato in buona fede, perché questo dobbiamo partire sempre da questo principio, ma si può dire non concordo sulla sentenza, sul contenuto della sentenza, sono cose diverse, cioè si rispettano i giudici, ma si possono discutere le sentenze. Se si è seguito un po' il processo, perché io un po' di giudiziario l'ho fatta da giovane e ho fatto mio il principio in base al quale meglio non parlare delle sentenze se non si sono lette almeno un po' di atti, frequentate un po' di udienze, questo in linea generale. Nel caso specifico il punto l'ha toccato proprio la madre di Cucchi. Quando un cittadino, quando il corpo di un cittadino viene preso in consegna forzatamente dallo Stato per ragioni previste dalla legge, lo Stato è responsabile di quel corpo e ne deve, garantire, aspetta un attimo, poi finisco subito, ne deve garantire l'incolumità. In questo caso specifico è evidente che le concause della morte di Cucchi sono diverse. Il tribunale ha deciso che non c'è un rapporto diretto fra le botte che ha preso e la morte, ha deciso che non c'è, ma questo è il punto vero, perché le botte le ha prese, però il tribunale ha deciso che non c'è un rapporto diretto, quindi non c'è l'omicidio da parte dei tre agenti. Anche perché alcune condanne ci sono state, appunto, le condanne sono state per i medici. Esatto, qual è il punto? Per i medici, quindi non è tutti assolti, cioè, se fosse stato tutti assolti lo diceva, diciamo così, però d'accordo, è vero Alessandro, però lo Stato dovrebbe, come dire, avere un responsabile dell'incolumità, uno o più responsabili. Io penso proprio che dovrebbe essere crearsi una figura, perché in Italia purtroppo, al di là di questo caso, sono molti, moltissimi, noi abbiamo provato ieri sul sito dell'Espresso, moltissimi casi di persone che entrano vive in un carcere, in una guardina di polizia o di carabinieri, e ne escono morte. Abbiamo a lungo parlato del caso Mastro Giovanni e di molti altri. Allora bisogna che ci sia un responsabile dell'incolumità, perché quando io consegno il mio corpo allo Stato, lo Stato ha il diritto di tenerlo in gabbia in base alla legge, ma ha il dovere di mantenerlo. Ma dovrebbero essere le stesse persone che rappresentano lo Stato in quel momento, cioè la polizia penitenziaria, quando si dice che questa sentenza è senza giustizia, non si vuol dire per forza che i tre agenti di custodia dovevano essere condannati, questo è giusto che lo stabilisca un tribunale, ma sicuramente non c'è stata da parte della giustizia la possibilità di raggiungere il responsabile dello Stato, il responsabile che ha preso quel corpo, l'ha tenuto in ostaggio, fino in ostaggio per carità legale, e non ne ha garantito l'incolumità. Questo è il punto. Vabbè, comunque, poi peraltro è una sentenza di primo grado, poi si sa come va in Italia, c'è l'appello, ci sarà eventualmente poi il terzo grado, e insomma staremo a vedere, però certo fa molta specie, fa molta anche colpisce molto vedere la sorella Ilaria che insieme ai familiari ha combattuto una battaglia e dice continueremo a combatterla. Non lo so, io se devo parlare di politica, intanto devo dire una cosa. Ah, attenzione, perché mi è quasi arrivato, ma Giglioli ha scritto un libro, ma... No. Un libretto, adesso non ti buttare giù. Il titolo è "Chi ha suicidato il PD". Ma chi è che ha suicidato il PD, Giglioli? Guarda, che tanto grazie di averlo citato. Lo spoiler è subito in quarto di copertina. È un breve processo ai 10 big della classe dirigente che hanno portato il PD al suo, recente suicidio. Ahimè, perché io sono un ex elettore. Un ex elettore, attenzione. No, se dobbiamo parlare di politica, io non ci volevo credere, ma stamattina ho letto e Maurizio, mi si sono allargati i saggi. Ho scoperto che... Cioè, dovevano essere 20, poi dovevano essere 25, poi sono 35, ma non è finita. Ne hanno nominati altri 7, ieri 7, che dovranno scrivere materialmente i testi. Saranno forse più costituzionalisti dei costituzionalisti già nominati. Quindi quanto siamo? A 42? Siamo arrivati a 42. Il comitato dei 42? Cos'è? Oh mamma mia. Il famoso dice il saggio. Vabbè, Nick Carter. Mi si sono allargati i saggi. Ma che sta succedendo, Maurizio? Le larghe intese prevedono larghi saggi. Sì, larghi saggi, o larghe sedie per i saggi, mamma mia. No, scherzando, voglio dire, se non è il numero, secondo me, ma è quel che esce fuori da quella commissione, evidentemente. Va detto che già il lavoro dei 10 saggi del Presidente della Repubblica, qualche punto fermo lo aveva stabilito. Io ho l'impressione, devo dire, purtroppo, ci sarebbe bisogno di ben altro, che il governo però stia un po' indugiando troppo nell'attività. Le cose che dice Letta anche ieri sera, da mezzo, sembrano in grandissima parte condivisibili: l'attenzione per i giovani, la disoccupazione giovanile che è una vergogna, l'economia che deve riprendere, tutto condivisibile. Il problema è che poi tra le parole e i fatti, purtroppo, c'è una bella differenza. Sì, ma è chiaro, poi le cose da fare. Intanto però devo dire questo messaggio, perché l'altra volta ho fatto arrabbiare Maurizio Tortorella, gli ho letto un messaggio che è arrivato, Giglioli, tu non sai cosa è successo. Allora leggo questo per Giglioli. È arrivato alle 6.41, è perentorio. Giglioli, comunista e cretino. Con tre punti esclamativi, questo non so neanche più vicino, che adesso, più vicino al cretino che al comunista. No, ma sto facendo mente locale, sto pensando tutto quello che hai detto per giustificare la pazzia di un messaggio comunista e cretino. Vabbè, cretino si sa, si dà così. Insomma, ci sta. La signora a te lo ha dato. Sì, infatti anche la signora. Era un termine un po' fascista, se non ricordo male. Cretino? Sì, non so, veniva utilizzato un termine. Dove sei, Maurizio? Maurizio? Tu però sei in una cava che non ti sentiamo. Mi provo ad avvicinare. È un termine, anni 30. Siamo anni 30. La deriva va in quella direzione lì. Quindi si potrebbe dire Giglioli comunista e fascista a sto punto. Comunista e fascista. Ma diciamo che io il cretino non lo sentivo più da quando avevo 13 anni. Mi fa piacere. Secondo me stiamo scivolando verso il lessico, l'olio di ricino. Cioè, c'è un momento di ritorno, ritorno a quei tempi, recupero. Vabbè, allora facciamo così, andiamo a recuperare il traffico. Poi c'è la segreteria telefonica, c'è un piccolo dramma, abbiamo avuto un problema, i file, eccetera. C'è una segreteria telefonica vecchia, e che devo fare? Non ci sono i nuovi file, cose che non mi interessano, noiose. Comunque il dato di fatto è che c'è una segreteria che magari avete già ascoltato, l'abbiamo recuperata da qualche giorno fa, e che dovevamo fare? 24 mattino. Andate su Google, cliccate Operazione Guardia di Finanza Roma Esculino cinesi e vedete come si fa a non pagare l'IMU. Il 90% dei codici fiscali erano falsi di questi operatori commerciali. Bravi cinesi, bravi, e noi li ospitiamo, bravi. Caro Milan, ti ascolto tutte le mattine. Mi l'ho sempre detto che è meglio fare il fior tra i poveretti che il poveretto tra i fiori. Noi altri italiani siamo come i magrebini, non c'è niente da fare. chiamo il tacco, chiamo tutto il fondo, là che ne mai fuori tutto. È meglio andare con la Libia, con la Tunisia, con l'Egitto, con l'Algeria, con il Marocco, Spagna e Grecia. Allora siamo i paroni del mondo. Alessandro, attenzione deputati e senatori 5 Stelle. Fino a ieri hanno bevuto il Tavernello con i bicchieri di plastica. Oggi stanno bevendo champagne con bicchieri di cristallo. Ritornare ai bicchieri di plastica dura. Meditate, gente, meditate. Ciao Alessandro, no niente, sono Marcos da Brescia. Volevo solo vedere se era la tua segreteria veramente, perché ho preso il numero alla radio di corsa. Un bacione, ciao. Signore Milan, non ci serve più nessuno qui. E non li potremo mandare nemmeno giù il campo a zappare. Perché se trovano un albero di cerase, per mangiarsi i frutti lo tagliano. Non capiscono niente. Guarda un po' Bersani, non è azzeccata una. Una non è azzeccata, l'ha sbagliate tutte. Sai come li definiamo noi? Sono quelli che dicono forse sì e forse no. Sono favorevoli, ma di pare il contrario. Mamma mia, siamo finiti. Siamo finiti, siamo con Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, con Alessandro Giglioli, che con l'Espresso, il suo blog Piovono Rane, è tra i 10 che hanno suicidato il PD, Giglioli, Bersani, come diceva il nostro zappatore. Tu che dici? È nel, podio, dai. Sì, è il primo dei 10 capitoli. Ah, il primo dei 10 capitoli, eccolo. Vabbè, ma qua, allora, mentre ci sono i saggi, mentre Renzi, se uno legge i giornali, Renzi un giorno sì, un giorno no, dice forse mi candido segretario PD, forse no, Berlusconi c'ha i problemi con la giustizia, Bossi vuol tornare a guidare la Lega, Di Pietro dice che torniamo nudi e crudi, il nudo noi e crudo il paese. Intanto ci sono 40 imprese al giorno che chiudono, ci sono i lavoratori che vanno a Terni in corteo e pigliano qualche manganellata, ombrellata, adesso il sindaco non si capisce chi l'ha picchiato, ci sono gli operai che a Fabriano perdono il posto di lavoro con la Indesit. Infatti voi di Panorama fate anche copertina oggi, quasi quasi me ne vado in Svizzera, ragazzi, ma qua stiamo lentamente morendo come paese, proprio il sistema produttivo. Maurizio, Alessandro, ditemi qualcosa, cioè oggi stiamo morendo lentamente e nessuno fa nulla, questa è un po' la sensazione, no Maurizio Tortorella? Perché oggi voi fate un lungo servizio di tutti coloro che se ne vanno in Svizzera, dice me ne vado in Svizzera, ma chi se ne frega? Beh, è una tendenza, purtroppo per fortuna, comunque è naturale, è normale, uno va in un paese dove le tasse vanno dal 10 al 20, dove l'IVA è all'8%, dove la burocrazia funziona, dove la giustizia funziona, l'anno scorso sono stati 6.000 gli italiani che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera. Imprese italiane che si sono trasferite nel Canton Ticino in 10 anni sono state 113, non sono poche, è soltanto nel Canton Ticino. Sì. Evidentemente c'è la capacità di attrazione di un paese più No, ma è chiaro. Vabbè, attenzione, non è gente che va lì per fare il fisso, è gente che va sfruttando la legge, sfrutta la situazione in Italia, dice io me ne vado in Svizzera, certo, è più facile per quelli che stanno in Lombardia piuttosto che quelli che stanno in Molise di fare questo tipo di scelta. È un fenomeno molto, molto nordico, evidentemente. È chiaro. Però qui la situazione, Giglioli, tu non hai questa sensazione, cioè anche il ritmo è questo, appunto, 40 imprese che ogni giorno scompaiono. Ma guarda, tanto per tirare una frecciata a mio collega Tortorella, gli cito Dürrenmatt quando diceva che la Svizzera è grande come il cimitero di Vienna, però è più piccola. No, scusa, però è più triste, ho sbagliato la citazione, sì. È grande come il cimitero di Vienna, però è più triste. Vabbè, comunque no, in Svizzera non ci andrei. Sicuramente abbiamo una situazione, io tra i figli, Milan, e sto brigando di diverse età, dai 22 ai 3 anni, sì. E sto brigando per mandare già il primo all'estero, non in Svizzera, che appunto è grande come il cimitero. Quindi non... Che bel messaggio, da una parte, però il dato di fatto è questo. No, devo dirlo, faccio outing, no? Dai, io ho 51 anni, in questo paese ci resto e cercherò fino all'ultimo giorno di migliorarlo, però chi ha 20 anni forse se si guarda fuori è meglio anche. No, se vogliamo collegarla alla politica, in un secondo proprio, l'hai detta tu, cioè questo è il governo, è la maggioranza che fa muina, 20 saggi, 35 saggi, 46 saggi, E la cosa singolare è che questa muina viene fatta proprio al contrario della missione di questo governo, che è nato, tutti dicevano, per necessità e con una scarsa base di consenso nel paese, per affrontare l'emergenza concreta. No, Letta ha detto, no, vabbè, questo non è un governo che ha altra missione che non quella di tirarci fuori dalla palta. E sta facendo esattamente il contrario. Siamo arrivati, come ha detto il mio amico Francesco Nicodemo, con una frase geniale, secondo me, alla democrazia in outsourcing. No? Sì, I costituenti, i padri costituenti erano tutti politici e tutti eletti. Adesso abbiamo dato in mano a 42 saggi la Costituzione a dei signori che sono in buona parte non politici e nessuno eletto, tranne vabbè. Comunque, insomma, staremo a vedere. Certo, i segnali non sono molto positivi, ma noi ne parleremo e approfondiremo anche in rassegna stampa, perché di economia c'è molto. Ringrazio intanto Alessandro Gigliori, ringrazio Maurizio Tortorella per essere stati con noi. Il numero della segreteria lo mandiamo adesso, sì, allora prendete carta e penna, da domani ci sarà la segreteria, spero, nuova, va bene. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:20 minuti, eccoci cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali per voi e siamo qui a ricordarvi anche di cosa parleremo alle 8:15. Alle 8:15 parleremo di Siria. Ebbene sì, un paese in cui c'è una guerra terribile da un anno e mezzo, un paese in cui ci sono forse l'uso delle armi chimiche, forse ci sono uccisioni terribili, di cui non parla nessuno, un paese in cui è scomparso da ormai più di un mese un giornalista italiano, un grande inviato, Domenico Quirico della Stampa, e non ne parla nessuno. Mi interessa sapere cosa succede in Siria e del perché magari in altri paesi, in altri teatri, siamo intervenuti in passato. Invece in Siria cosa stiamo facendo, noi come comunità internazionale? Beh, poco o nulla. Comunque ne parleremo dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. È giovedì 6 giugno, i titoli sono legati a vicende diverse, c'è chi punta come il Sole 24 Ore sull'appello di Squinzi, il paese deve credere nella crescita e dunque sull'emergenza imprese, pensate 40 imprese al giorno che scompaiono. Così l'industria affonda, questo è il titolo anche del Messaggero e l'Unità Lavoro Emergenza Italia. Mentre Avvenire punta su un'altra emergenza, emergenza uomo, questo è il titolo con l'appello del Papa, coltivare e custodire il creato. Mentre il Corriere della Sera, la politica, governo e PD a fondo di Renzi, c'è un'intervista al sindaco di Firenze. La Repubblica, la sfida di Letta, resto 5 anni. La Stampa, un'intervista a Epifani, Berlusconi garantisca 2 anni di vita al governo, questo è il titolo. Il Giornale, Grillo controlla la RAI. Libero invece continua la campagna anti-euro, nasce l'asse anti-euro, questo è il titolo, mentre due titoli di prima pagina, che è la notizia da cui vorrò partire, è la vicenda Cucchi. L'hanno ridotto così, questo è il titolo del Fatto Quotidiano che ripubblica la foto di Stefano Cucchi morto. L'hanno ridotto così, ma per i giudici è colpa dei medici. Mentre il Manifesto titola Ingiustizia è fatta c'è la foto appunto di Stefano Cucchi. Da qui voglio partire perché le polemiche sono numerose sui giornali. Quando c'è stata questa sentenza, avete sentito, lo abbiamo fatto sentire anche l'audio alle 6:30, i parenti di Stefano Cucchi, molti hanno rumoreggiato, hanno gridato assassini in aula. È arrivata la sentenza di primo grado dopo 2 anni, e dopo 2 anni di processo, 7 ore di camera di consiglio. E cosa ha stabilito la sentenza di primo grado? Beh, le pene sono andate ai medici che lo avevano in custodia, ma invece sono stati assolti tutti gli agenti di polizia penitenziaria per non avere commesso il fatto, quelli che secondo la pubblica accusa lo avevano invece picchiato, portando poi al suo ricovero nell'ospedale militare e da lì la successiva morte. Cucchi, condannati medici, agenti assolti, questo è il titolo del Corriere della Sera, ma guardate, ovunque questa notizia, la notizia di cronaca principale, prende due o tre pagine. Ci sono interviste di Ilaria Cucchi, la sorella che in prima persona ha portato avanti la battaglia personale per, dice, avere giustizia nei confronti di mio fratello, morto dopo le torture, ma per i giudici è stata mala sanità, cioè la causa della morte è stata di fatto una morte per fame e sete, cioè abbandonato, per questo sono stati condannati i medici che lo avevano in custodia. Sono due però le interviste che mi hanno colpito. La prima è quella alla madre di Stefano Cucchi, anche perché raramente ha parlato. Rita Calore viene intervistata dal Secolo XIX, l'intervista la trovate a pagina 7. Lo Stato mi risponda, a uccidere il mio Stefano è stato un fantasma? Io non mi aspettavo un verdetto così, assolutamente no. Ho avuto fiducia fino all'ultimo nei giudici, anche se il nostro avvocato temeva un esito deludente. Oggi hanno ammazzato Stefano per la seconda volta. Io ho avuto fiducia nella giustizia. Adesso Stefano è morto due volte, mi devono dire chi è stato. Lo Stato deve trovare la verità. Chi è stato? Un fantasma a farlo morire? E adesso andiamo avanti. Come mi colpisce molto l'intervista che viene fatta, ed è la prima volta che parla, uno degli imputati assolti. Si tratta di Corrado Sant'Antonio, agenti della Polizia Penitenziaria, intervistato da Valentina Errante sul Messaggero. L'intervista la trovate a pagina 12. Io, agente penitenziario, non ho picchiato nessuno. Non sono contento, se è questa la domanda che volete farmi. Io e la mia famiglia siamo solo sollevati da un'angoscia terribile, un attacco mediatico che non auguro neppure al mio peggior nemico. Nessuno di voi giornalisti si è mai preoccupato di sentire la nostra voce. Noi, gli agenti della penitenziaria, siamo persone per bene. Faccio questo lavoro da 35 anni, ho anche avuto un'onorificenza del Presidente della Repubblica. Ogni anno, racconta, da Piazzale Clodio passano migliaia di detenuti. Cucchi neppure me lo ricordo, non era neanche sotto la mia custodia. Se fosse successo a un detenuto sarebbe stato di mia competenza, ma gli arrestati, che devono essere processati per direttissima, sono sotto custodia di carabinieri e polizia, quelli che li arrestano. Leggetevi le perizie, è morto per malnutrizione, così dicono gli esperti, e da noi non ha subito nulla. Perché nelle celle di Piazzale Clodio vengono trattati tutti come dei signori. Ecco, questa frase colpisce anche per l'immagine che dà Corrado Sant'Antonio. Vengono tutti trattati come dei signori. Cosa è successo? Questa è allora la domanda del Messaggero. Io non lo so, ma non è vero che stava bene quando è arrivato da noi. I segni sono le conseguenze della morte. Andrebbero letti bene tutti gli atti del processo. Comunque quello che posso dichiarare è che nelle celle del tribunale una cosa del genere non è mai accaduta e voi ci avete rovinato la vita. Così si sfoga e parla per la prima volta l'agente di polizia penitenziaria che è stato a uno dei tre assolti. Tra l'altro un articolo altro interessante su questo tema lo pubblica La Stampa con Francesco Grignetti. Il titolo è questo: il test chiave dell'accusa è sparito da anni. Si parla di un test chiave che aveva testimoniato all'epoca un gambiano, cittadino della Gambia, che era la base del disegno della procura, sarebbe stato, cioè la procura diceva che Cucchi era stato pestato nelle celle di sicurezza del tribunale, poi portato nel repartino detenuti dell'ospedale del Pertini e l'ha abbandonato finché non era morto di fame e sete. Di qui l'ipotesi di reato per gli agenti di custodia e quella per gli infermieri e i medici dell'ospedale. Ma il testimone chiave, che non è neanche intervenuto al processo, sua testimonianza non è stata sottoposta contro interrogatorio, ritenuta credibile certo dal PM, ma davanti alla corte ha avuto un peso relativo, è quella di questo gambiano che è sparito in realtà da 3 anni, non si trova più l'uomo che tirò in ballo gli agenti che si difendono così, noi siamo innocenti e perseguitati. Trovate davvero tanti tanti commenti su questa vicenda. Io prima della pubblicità però vi voglio regalare una chicca che qualcuno magari farà arrabbiare. Dunque il mantra e il messaggio è sempre quello: tenete le mani ben strette sul volante nell'ascoltare questa notizia, perché proviene dal mondo della giustizia anche questa, ma è davvero una vicenda ben diversa. La racconta Fulvio Buffi sul Corriere della Sera. il titolo è già tutto un programma. La PM che chiamava l'astrologo ora rischia la sanzione del CSM. Una PM, si tratta di Claudia De Luca, che nel 2003 in un'inchiesta in cui si indagava su altro venne beccata, pizzicata a fare 65 chiamate col cellulare di servizio verso utenze 899 per chiamare il chiromante o la chiromante. Fu processata, condannata nel novembre 2011 per peculato, ma quello che mi colpisce è questo: fu processata e condannata nel 2011 per peculato. Ieri la vicenda ha concluso il suo iter col pronunciamento della Cassazione, quindi processo finito. Ora toccherà al CSM processare, tra virgolette, il magistrato, che a questo punto rischia seriamente un procedimento disciplinare. Avete capito, cari italiani? Rischia seriamente un procedimento disciplinare dal CSM dopo che è arrivata una condanna fino alla Cassazione per peculato. Ora è a rischio serissimo di un procedimento disciplinare. La PM che chiamava l'astrologo o il chiromante o la chiromante con il cellulare di servizio. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci, eccoci, eccomi allora a leggere i giornali. Intanto partiamo dall'economia, al sistema produttivo del paese. Ieri c'è stato ancora l'appello alla questione industriale del presidente di Confindustria Squinzi, che è l'apertura di alcuni giornali come del Sole 24 Ore. Il paese deve credere nell'obiettivo della crescita, rimboccarsi le maniche, soprattutto puntando sul manifatturiero. C'è questa cifra che oggi viene ripetuta dai giornali. Nel manifatturiero 40 imprese al giorno scompaiono, 40 imprese di media, anche oggi giovedì 6 giugno 40 imprese scompariranno, e questa è la cifra che fa capire la situazione di crisi. A pagina 2 del Sole 24 Ore ci sono i dettagli: perso il 15% del potenziale produttivo dal 2007 a oggi, si è tornati a livello del 1990. I dati di Rossella Bocciarelli, spiegati da Rossella Bocciarelli, sono i dati del Centro Studi Confindustria. La base produttiva italiana è in pericolo perché il prodotto industriale potenziale dalla fine del 2007 a oggi si è ridotto del 15%, è tornato al livello del 1990. Quanta parte di questa distruzione di ricchezza si rivelerà alla fine permanente, con tutto quello ciò che comporta in termini di altri posti di lavoro perduti? Questo è l'interrogativo, in pratica, che ha percorso ieri il rapporto sugli scenari industriali presentato ieri nella sede di Confindustria. Questo titolo lo trovate un po' ovunque, anche sulla stampa. La crisi ha cancellato 55.000 imprese. Questo è il titolo di pagina 8 con l'articolo di Roberto Giovannini. Anche perché succedono alcune cose davvero singolari in Italia. Una la racconta Sergio Rizzo con la solita puntualità e precisione sul Corriere della Sera a pagina 3. L'articolo è sotto questo titolo: pale eoliche e centrali nucleari spente, in bolletta un conto da 230 euro. Udite bene, cari italiani, perché davvero siamo al paradosso del paradosso. Voi pensate che in Italia si possa morire di troppe tasse, ma la tassa sulle tasse davvero io non l'avevo ancora sentita. Non sarà certo per questo motivo che il costo dell'energia elettrica è il più alto d'Europa, inizia così l'articolo Sergio Rizzo, ma se proprio vogliamo fare la classifica delle assurdità che hanno fatto conquistare le tariffe italiane il primato continentale, in cima a tutti ci sono le tasse sulle tasse. Io quando l'ho letto ho strabuzzato e ho detto: e che è questa? Le tasse sulle tasse. Eccola qui. L'IVA viene infatti applicata sull'importo lordo comprensivo dell'accisa. Il risultato è che le famiglie pagano ogni anno sulle bollette elettriche almeno 130 milioni di imposte su una imposta. Senza contare le imprese. Guardatele con attenzione quelle bollette, perché scoprirete cose che mai avreste immaginato. Quest'anno, per esempio, i cosiddetti oneri generali di sistema arriveranno a pesare sul totale per quasi il 20%. E cosa sono questi oneri generali di sistema? Voci senza alcun rapporto col prezzo dell'energia, il costo della trasmissione o dei servizi di rete. Lì dentro ci sono, per esempio, gli incentivi per le rinnovabili, i pannelli solari, le pale eoliche, le centrali biomasse, ma anche le fonti cosiddette assimilate trattate come gli scarti inquinanti delle raffinerie che tuttora godono di contributi ecologici. Quest'anno si toccherà il record assoluto di 13 miliardi di euro, facendo salire il conto di questi oneri generali di sistema a ben 14 miliardi, ovvero 230 euro per ogni cittadino italiano. Ecco, poi l'articolo va avanti ovviamente con altri dettagli, ma mi fermo qui sulla tassa sulle tasse perché ne abbiamo abbastanza. Oppure è il rapporto perverso a volte di una giustizia lenta, burocratica, che a volte sbaglia, tante volte invece fa le cose per bene, in maniera corretta, a volte sbaglia, certo, ma come, quando sbaglia, come racconta Libero in questa storia, a pagina 6, a firma Peppe Rinaldi, in bancarotta per i PM, giustizia peggio della crisi, si racconta la storia dei Maiolica, un'azienda del 2003, un tempo leader nel commercio al dettaglio nella produzione alimentare, e si dice un tempo leader, ex industria. Perché? Perché ormai non esiste più nulla, distrutto da una baldanzosa inchiesta della Procura di Salerno, finita nel nulla dopo 10 anni. Siamo nel 2003, racconta Libero, la famiglia Maiolica acquista dei suoli nell'area ASI di Salerno, che un tempo appartenevano all'Ideal Standard, su cui avrebbe dovuto sorgere prima un parco marino, dopo una centrale termoelettrica. L'accusa dei PM era il 30 dicembre 2003, esattamente 42 giorni dopo che i Maiolica perfezionano l'acquisto dei suoli, l'accusa è lottizzazione abusiva. E va bene, c'è l'inchiesta e tutto. Che cosa succede? Succede che la fine della sentenza è il 20 maggio, dunque qualche giorno fa, il tribunale mette nero su bianco che i Maiolica sono innocenti perché il fatto non sussiste. Eh già, ma nel frattempo l'azienda ha chiuso, l'inchiesta si è mangiato, diciamo, tutta anche la reputazione di questa impresa. E i Maiolica oggi fanno sapere che stanno per formulare una richiesta di risarcimento danni allo Stato per 30 milioni di euro. Ecco, una storia di una singola impresa che si contorce con il tema giustizia, e anche questo è fonte della situazione economica attuale. Intanto li avete visti, insomma, le immagini degli scontri? Che effetto vi ha fatto i lavoratori del... a Terni della ex Thyssen, che sono andati e si sono fronteggiati con un cordone della polizia? È volata anche qualche manganellata, è volata anche forse un'ombrellata, insomma, cosa abbia colpito il sindaco di Terni, che era lì, Leopoldo Di Girolamo, insieme agli operai, non è ancora ben chiaro. Secondo lo stesso Di Girolamo è stata proprio una manganellata della polizia, secondo la polizia in un video che è stato fatto girare sarebbe stata un'ombrellata di un manifestante che è stato già individuato. Sta di fatto che questo è il sintomo di una situazione sociale di tensione legata al mondo del lavoro, che ogni giorno regala notizie sempre più cariche di problematiche. Tra l'altro alle 9 ne parlerà Simone Spezia. Terni in tilt, scontri alla ex Thyssen. Il sindaco di Terni, per la verità, fa una serie di interviste dicendo pronto a prendere altre manganellate se serve. Al Corriere della Sera, per esempio, intervistato da Fabrizio Caccia, tra l'altro la sua foto col volto totalmente insanguinato, con il sangue che gli colla dalla testa, dice: ombrellata o manganellata, la questione è politica, dice il sindaco di Terni. I poliziotti per la prima volta hanno usato i manganelli contro i lavoratori e le istituzioni. Ora Di Girolamo è tornato a casa dalla moglie, che per fortuna è come me e non si spaventa di nulla. Comunque sono pronto a prendere altre manganellate se serve. Beh, effettivamente fa molta specie, come fa specie il reportage che Repubblica scrive con Jenner Meletti a pagina 4, da Fabriano in provincia di Ancona, sull'Indesit. La rabbia dopo i tagli, racconti degli operai che dicono trattati come numeri, la fabbrica è il nostro Vietnam, e raccontano una situazione difficile, di rischio di nuova tensione sociale per la perdita di altri posti di lavoro. Ragazzi, questa è la situazione. La politica come risponde? Come risponde? Intanto, allargando il numero dei saggi. Non ci volevo credere questa mattina. Erano 20 sul Sole 24 Ore qualche giorno fa. Poi sono diventati 25 dopo mezz'ora, quando ho letto il Corriere della Sera. Poi ne hanno nominati 35. Ma mi si sono allargati i saggi. Ieri ne hanno nominati altri 7. altri 7, 42. Questi 7 dovranno scrivere materialmente le proposte, i testi di legge che dovrebbero essere prodotti dai 35. E mi si sono allargati i saggi. Qua non ti puoi distrarre un attimo, Carmelo Lauricelle, regia. Non ti puoi distrarre un attimo, magari zac, ne hanno fatti altri 2 nel frattempo. Per ora siamo a 35 nominati, più 7 relatori. Commissione, altri 7 saggi relatori. Lorenzo Fuccaro sul Corriere della Sera. Accanto agli esperti che daranno una mano al governo nell'elaborare le riforme costituzionali, ci saranno altri 7 accademici che scriveranno materialmente i testi. Ma scusate, ma tra i saggi ci sono già degli accademici che non finiscono più, che non sanno scrivere un testo, loro hanno bisogno di 7 relatori per... Ma non è una questione di spreco di denaro, cari ascoltatori, non è questa demagogia pura, non credo che prenderanno un rimborso, eccetera, non sono certo queste le cose. Ma non lo so. Altri 7 saggi relatori. Poi leggo ancora l'articolo del Corriere: ci vorranno 4 mesi per produrre un testo. Ma se mai lo produrranno? Ma non lo dico io. Infatti il professor Sartori, intervistato da Mattia Feltri sulla Stampa, udite udite, dice a pagina 5: i saggi ma dove vanno? Sono troppi, non combineranno nulla. Questo lo certifica, lo dice il professor Sartori, è un'opinione. 35 persone sono già un parlamentino. Bisogna aggiornare l'intervista a Sartori, sono 42. E infatti questi 35 saggi, più 7 relatori, aggiungiamo, sono stati scelti in rappresentanza dei partiti, dei loro interessi. Guardi, dice Sartori, ai partiti delle riforme costituzionali interessa poco o nulla. Tanto è vero che potevano cominciare con la legge elettorale e non l'hanno fatto. Ma sostengono che la legge elettorale va rivista in base a come è stata riformata la Costituzione. Questa è una stupidaggine alla grande, risponde Sartori. Che c'entra il tipo di assetto istituzionale che ti dai con la legge elettorale che scegli? Io l'ho scritto molte volte, sono per il doppio turno alla francese, vabbè, anche per il semipresidenzialismo, vabbè, qua poi ci perdiamo nei meandri della discussione. Ma la premessa è questa, insomma, che faranno questi 35 saggi con 7 relatori, sempre che alle 7.49 non ne abbiano nominati nel frattempo altri 2 in questo frangente, non lo so. Spero che lo sappiano loro. Tra 4 mesi ci sarà prodotto il primo testo, vedremo. Ieri Enrico Letta, il premier, è andato alla Lilli Gruber, la prima intervista ufficiale, completa, e ha detto che ci vogliono 18 mesi per fare le riforme, altrimenti, ha ripetuto l'impegno, me ne vado. Poi comunque ha detto ottimisticamente che secondo lui può darsi che il governo duri assolutamente 5 anni. Alla domanda il mio esecutivo finirà la legislatura, dice Letta, andrò avanti fino al 2018, questo è il titolo di Repubblica. D'altra parte, insomma, Matteo Renzi, Pierino Renzi, anche se lui si arrabbia molto, dice mi definiscono come il Pierino, il monello che vuole il potere, però di fatto fa un'altra intervista al Corriere della Sera ad Aldo Cazzullo, intera pagina 9. Intanto non chiarisce questo ruolo, si candida alla segreteria, non si candida. Noi nella prima intervista radio che ha fatto dopo tanti mesi ha detto no, assolutamente non mi posso candidare, non lo troverei giusto. Adesso pare che abbia cambiato idea. La domanda è: si candida alla segreteria del PD, sì o no? Dipende dal PD, non da me. Questa è la risposta un po' democristiana. Se riusciamo a uscire dalla palude, a imporre i nostri temi, la nostra gente capirà il governo col PDL, ma se tiriamo a campare, ci facciamo dettare l'agenda da Berlusconi, allora puntini puntini. Certo, dice sui saggi, sento che si parla di saggi, commissioni, ma non occorre un saggio per dire ad esempio che la burocrazia italiana è da rifare, te lo dice anche uno scemo. Quando la politica non vuol risolvere le cose fa una commissione, eccoli, subito Renzi che impallina, no? La commissione, le riforme eccetera. Poi fa una lunga intervista, dice io non è vero, mi sono stancato di passare per il monello in cerca di un posto, il ragazzo tarantolato con la passione del potere, sono l'unico che non si è seduto su nessuna poltrona, è rimasto dove era prima. Comunque dice forse mi candido, questo si capisce, che fa sapere che si candiderà alla segreteria del PD, e dice e il ruolo non è incompatibile con il sindaco di Firenze, dunque sindaco e segretario, questo potrebbe fare Renzi, l'attuale segretario del PD invece Guglielmo Epifani fa un'intervista a Repubblica, scusate, alla Stampa, pagina 3, con una sorta di appello a Berlusconi. Berlusconi garantisca 2 anni di stabilità. Dovrebbe garantire, dice a Carlo Bertini Epifani, una stabilità di 2 anni al governo, solo così si potranno varare le riforme. Vabbè, vabbè, la politica è tutta qui, altre cose, ci sono 2 del 5 Stelle che probabilmente usciranno a giorni, Alessandro Furnari e Vincenza Labriola. Questa è la politica. Voglio concentrarmi in chiusura sulla cronaca, perché ci sono dibattiti su quella vicenda terribile avvenuta a Piacenza, il bambino di 2 anni dimenticato dal padre in auto è morto. Ora tutti ovviamente si chiedono la domanda che si fanno tutti, ma davvero tutti in Italia: come è potuto succedere, come hai potuto dimenticare tuo figlio. Ci sono gli innocentisti, quelli che insieme a lui soffrono dicendo è morto anche lui, questo povero papà colpito da un blackout. Fabio Poletti racconta sulla Stampa l'assurdo errore di Andrea, il papà perfetto, tutto lavoro e famiglia, raccontano i carabinieri, l'abbiamo dovuto tenere in 9 quando si è reso conto di quello che ha fatto e sta man mano prendendo coscienza della dimenticanza che ha portato a questo. C'è chi, come Giordano Bruno Guerri, fa un articolo sul Giornale dal titolo «Non si può processare il dolore di un padre», mentre Mario Giordano è il più duro su Libero in prima pagina: «Quel papà sciagurato non merita alcuna assoluzione». Scrive Mario Giordano: «Scusate, ma io non riesco a perdonarlo, il papà che ha dimenticato il bimbo in auto per 8 ore. Non riesco a associarmi ai cori del poverino, chissà come soffre, adesso bisogna aiutarlo, è lui la seconda vittima. Seconda vittima neanche per idea, l'unica vittima di questa storia è quel piccolo di 2 anni soffocato negli stenti perché il suo papà si era scordato della sua esistenza. Il padre è un irresponsabile che ha commesso un atto mostruoso e non può essere perdonato in nessun modo. Invece ho letto sui giornali un coro di psicologi, parapsicologi, tutti intenti a trovare giustificazioni, il cortocircuito, una dissociazione, un buco nero che inghiotte». Insomma, questo è l'esordio dell'articolo. Comunque la pensiate, oggi ci sono tanti articoli che parlano di questo dramma e drammi. Io giudico poco, certo, a leggere i resoconti viene davvero la pelle d'oca. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 17 minuti, cari ascoltatori. E allora io vi voglio fare questa domanda: ma voi che state in questo momento magari andando al lavoro, siete magari presi dalle vostre preoccupazioni quotidiane, state accompagnando i figli a scuola, dovete pensare alla giornata, ma vi interessa quello che sta succedendo da 1 anno e mezzo in Siria? No, perché in questo paese, tra la Turchia, l'Iraq, il Libano, Israele, la Giordania, questi sono i paesi confinanti, lo sapete che nell'ultimo 1 anno e mezzo sono morte, secondo alcune stime, sono state uccise 90.000 persone in una terribile guerra civile? Perché si produce uno strano cortocircuito in Italia. Quando c'era la guerra in Iraq, per carità, una guerra globale, tutti a parlare di Iraq; quando c'era la guerra in Libia, tutti che ci siamo trasformati in esperti di strategia militare, avevamo la soluzione per la Libia. Ebbene, della Siria adesso non parla quasi nessuno. Lo sapete che in Siria si parla di utilizzo di armi chimiche? Quelle che peraltro forse non c'erano neanche in Iraq, ma si è fatta una guerra lo stesso. Lo sapete che ci sono uccisioni terribili con video anche che vengono mostrati? Perché la comunità internazionale non agisce? Cosa dovremmo fare? Dovremmo intervenire? Dovremmo occuparcene? Dovremmo fare qualcosa di concreto? Oppure chi se ne frega, sono siriani, si ammazzino? Lo sapete che la Siria, tra l'altro, ha inghiottito da circa 1 mese un inviato italiano, Domenico Quirico, inviato della Stampa, di cui non si sa più nulla. Ebbene, di tutto questo vogliamo parlare, cercando anche di spiegare quello che sta succedendo in questo paese che ci sembra così lontano, lontano almeno dal punto di vista dell'informazione italiana, ma che in realtà forse può essere molto più vicino di quanto pensiate. Lo facciamo con intanto l'inviato del Corriere della Sera, Davide Frattini, che si trova a Damasco. Buongiorno Davide, benvenuto. Buongiorno. Voglio salutare anche padre Paolo Dall'Oglio. Buongiorno padre Dall'Oglio. Buongiorno a voi tutti, poi un saluto a Davide. Lei ci parla dal Kurdistan in questo momento, è così? Si trova in Kurdistan? Sono nel Kurdistan iracheno. Sì, nel Kurdistan iracheno. Allora, padre Dall'Oglio, poi lo voglio presentare con più... è un personaggio straordinario, insomma. Tra l'altro potete leggere sulla rivista Popoli, dove si occupa in una rubrica della Siria, aggiorna sempre. Padre Dall'Oglio è un padre gesuita. Da quanti anni ha passato in Siria lei, Dall'Oglio? 30 circa? 30. Più di 30. Si è occupato molto di dialogo interreligioso, poi nel 2011 è stato, diciamo, bandito dalla Siria e nel 2012 espulso dal regime Assad. Allora, Davide Frattini, intanto la situazione. Noi leggiamo dal resoconto che anche tu oggi scrivi sul Corriere della Sera, le truppe di Assad, quindi le truppe dell'esercito regolare, hanno ripreso la città di Qusair, dove c'erano che era in mano al fronte ribelle. Intanto puoi spiegare agli italiani cosa sta succedendo in Siria, cioè chi si combatte? Ma in Siria è cominciata anni fa una rivolta popolare con delle dimostrazioni pacifiche. Io ero qui nel marzo, aprile del 2011, proprio all'inizio, e parliamo di una specie di seguito o di copia, se così vogliamo, di quello che era successo poco prima in Tunisia e in Egitto, stava cominciando in Libia. La reazione del regime è stata estremamente violenta. Nella città di Dera, che è nel sud della Siria, verso il confine con la Giordania, sono intervenuti i militari, l'esercito, la città è stata posta sotto assedio e gradualmente questa rivolta popolare si è trasformata in una guerra civile, è stata trasformata, ci sono state anche, se vogliamo, delle pressioni esterne, perché è cominciato a diventare, la Siria è diventata in questo momento un campo di battaglia anche per gli estremisti sunniti, che hanno deciso di spostarsi verso qui dall'Iraq, per esempio, e di combattere contro il regime, anche se poi il loro obiettivo non è, come per il resto dei ribelli, cioè l'esercito siriano libero, il loro vero obiettivo. Sì. E dall'altro lato abbiamo un intervento, se così vogliamo chiamarlo, internazionale da parte di Hezbollah e comunque delle milizie sciite che hanno deciso di supportare pesantemente il regime di Assad, usando come giustificazione, almeno questo è quello che dice Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, il fatto che loro devono proteggere gli sciiti e gli alawiti, che è la minoranza al potere, dai takfiri, come li chiama Hezbollah, cioè dai musulmani che considerano degli altri musulmani apostati e per questo vogliono uccidere. Certo, ma per questo, esatto, Davide, dobbiamo considerarla una guerra loro? Ti faccio queste domande molto, una guerra che non ci interessa, una guerra tra musulmani? No, io credo che ci possano essere varie motivazioni o giustificazioni, se così vogliamo dire, perché ci interessi. Ci possono essere quelle morali, ovviamente, perché parliamo di 100.000 morti e siamo sul Mediterraneo, cioè abbiamo considerato la guerra nella Jugoslavia così vicina a noi perché era al di là del confine italiano, però qui stiamo parlando veramente del Mediterraneo orientale, non siamo lontani dalla Grecia, ecco, voglio dire. Quindi anche fisicamente non è una cosa così lontana. Esatto, se vogliamo vederla da questo punto di vista, c'è anche un problema che quello che noi abbiamo visto nascere dopo la guerra civile irachena, non tanto l'intervento americano, o se vogliamo andare più indietro, l'estremismo, il fondamentalismo sunnita dopo la jihad in Afghanistan contro i sovietici, e tutto quello che ha portato dopo gli anni, parliamo dell'Afghanistan 1979, se consideriamo come conseguenza l'attacco alle torri, sì, a New York, voglio dire, sono passati, quanto faccio fatica, 20 anni, ed è successo. In questo caso probabilmente la Siria, più va avanti, più ci sono i morti nella città, più c'è questo scontro che sta diventando anche religioso tra sciiti e sunniti, si rischia in un'area molto importante, perché, come hai detto tu, confina con il Libano, confina con l'Iraq, confina con Israele anche, si rischia con il non intervento, con che con degeneri l'odio che la cresce, situazione, con l'estrocista, cioè, che crescono, di creare una situazione che poi prima o poi esploderà, sì, potrà finire, parte. Potrà, esatto, attraversare anche i confini. Io vorrei, padre Paolo Dall'Oglio, poi magari parleremo anche della sua esperienza personale, del perché dopo 30 anni impegnato in prima persona nel dialogo interreligioso c'è stata questa espulsione dalla Siria. Intanto però le vorrei chiedere, secondo lei la comunità internazionale sta facendo abbastanza, o perché in Libia è successo quello che è successo, una guerra, un intervento militare, e in Siria invece non c'è niente di tutto questo, almeno non si profila all'orizzonte? Io direi che la comunità internazionale sta facendo abbastanza per punire e distruggere il popolo siriano, quindi con un sorriso addolorato direi che sì, si sta facendo abbastanza per farla finita con questo popolo un po' troppo complicato al confine con Israele. Veda, io un anno fa ero a Qusair, nella città di Qusair, ho degli amici lì, ho perso degli amici lì, quindi non stiamo parlando di cose teoriche, io sto parlando di cose che mi riguardano nella carne. E ringrazio quelli che ci stanno ascoltando, mi chiedo se oggi qualche italiano in più, come gli amici di Crema, dell'amministrazione comunale di Crema, che hanno preso un'iniziativa per la Siria, qualche italiano civile, qualche italiano democratico in più, invece che così lasciarsi cadere le braccia cittadine di fronte a un dramma ormai ridotto anche dal Vaticano, ieri con il discorso del Papa, anche dal Vaticano ridotto unicamente ad un'emergenza umanitaria. Quindi la volete svuotare la Siria? Facciamo degli ospedali tutto intorno, svuotiamola, facciamone semplicemente, come lei ha detto molto bene, è una loro questione, è una questione tra musulmani. Quanto, il fatto è che nei giornali e nell'internet si trovano le teorizzazioni di tutto un settore dei programmatori politici, secondo il quale in fondo la lotta intestina civile tra i musulmani è interesse, corrisponde con l'interesse geostrategico dell'Occidente e con l'interesse geostrategico israeliano, in particolare nella regione. Più nemici si ammassano tra loro, è tutto riguadagnato, questo lo capiscono anche i bambini che eventualmente ci ascoltano e per i quali non siamo capaci di fare un Mediterraneo migliore. A voi la linea. Ma infatti, padre Dall'Oglio, lei cosa vorrebbe? Perché ha messo un po' tutte, ha criticato anche diciamo il Vaticano, ha criticato la comunità internazionale che addirittura dice sì, vuole fare di tutto per regolare i conti in qualche modo con il popolo siriano. Cosa invece lei, secondo suo parere, cosa andrebbe fatto concretamente? Un intervento militare? Non credo, visto le sue convinzioni che porta avanti da 30 anni. Ma guardi che vede, tutto ciò che non è stato fatto già per 2 anni. Quindi non è che stiamo parlando di rischi, i rischi si sono tutti avverati, i crimini sono stati tutti eseguiti, il popolo è già assassinato, una delle più belle zone anche archeologiche, culturali, di civiltà del Mediterraneo è già stata distrutta, quindi non parliamo più di rischi, parliamo eventualmente di qualche rimedio e di qualche rappezzo di una situazione ormai del tutto compromessa. Noi 2 anni fa parlavamo della responsabilità internazionale civile di fronte alla rivoluzione democratica dei siriani, di tutti i siriani democratici. Questa è stata abbandonata per essere ridotta secondo la Vulgata, secondo il catechismo di regime riecheggiato anche dagli ecclesiastici in Occidente ad una guerra civile e una storia di terrorismo islamico. Questa interpretazione, l'aver dato retta ai giornalisti non onesti o stupidi, utili, questo è già il crimine di un'opinione pubblica che qualcuno riesce a tenere bambina e imboccata ogni mattina con qualche slogan che non so sì. come definire, guardi, perché il combattimento di alcuni suoi colleghi, e spero di poterla contare tra loro, coraggiosi, che in due anni hanno cercato di contrapporsi coscientemente all'enorme macchina di manipolazione di regime, che hanno anche una possibilità grande di incidere, perché da anni hanno investito in pacchetti azionari nella informazione occidentale. Qui il problema è sapere se i cittadini italiani, i cittadini europei, i cittadini mediterranei vogliono che il regime mafioso, non lo dico io, l'ho detto anche il ministro degli esteri francese, il regime mafioso degli Assad, collegato con tutte le mafie, comprese quelle della droga naturalmente, deve essere la regola del Mediterraneo, oppure se i cittadini devono vincere. Beh, insomma, molto molto chiara e molto dura la sua posizione. Facciamo così, io mi devo fermare 4 minuti, c'è la pubblicità, poi so che Davide Frattini ci deve lasciare, lo ringrazio per la testimonianza da Damasco. Rimane con noi, invece lo richiamiamo tra 4 minuti, padre Paolo Dall'Oglio, che avete sentito dire il regime mafioso di Assad, cioè il regime che controlla il potere costituito in Siria. Ci raggiungerà anche Mimmo Candito, inviato della Stampa, presidente di Reporter Sans Frontières in Italia, per capire anche se si hanno notizie di Domenico Quirico, inviato della Stampa, giornalista italiano che era andato lì a raccontare, del quale da oltre un mese non si sa più nulla. Chiedo anche a voi, cari italiani, 800 24 00 24, avete un parere formato, un'idea su quello che sta succedendo in Siria e sul perché questa cosa interessa poco, relativamente poco, rispetto alla proporzione della tragedia umana, anche 100.000 morti avete sentito non lontani da noi. 24 Allora, eccoci qua. Alle 8:36 minuti parliamo di quello che sta succedendo in Siria da un anno e mezzo, 100.000 morti, queste sono le stime. Con noi, dopo aver salutato e ringraziamo Davide Frattini, con noi c'è padre Paolo Dall'Oglio che ci parla del Kurdistan iracheno, padre gesuita, 30 anni in Siria, poi espulso nel 2011. Ci ha raggiunto anche, voglio salutarlo, Mimmo Candito, inviato della Stampa, presidente di Reporter Sans Frontières Italia. Mimmo, buongiorno e ben buongiorno. Ritrovato. Anche perché ovviamente vorremmo parlare della Siria, un paese dimenticato molto dall'informazione italiana, per la verità, quella internazionale no, e anche della vicenda di Domenico Quirico, inviato della Stampa, l'ultima volta che ne avevamo parlato per lanciare questo messaggio, questo segnale, ma da allora è ormai passato più di un mese, non si hanno davvero notizie. Prima vorrei sentire un ascoltatore, Saverio da Pesaro. Buongiorno Saverio. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo chiedere a padre Dall'Oglio, concretamente, mi rifaccio anche la sua domanda, che cosa bisogna fare, cioè come intervenire militarmente con delle sanzioni, perché le sanzioni, si è visto, i posti dove sono state applicate, Corea, Iran, sì, eccetera, eccetera, hanno sortito ben poco. Generalmente queste situazioni, quando i paesi cosiddetti democratici o le Nazioni Unite o la Comunità Europea vuole intervenire militarmente, qualcosa si ottiene. A volte poi il risultato è peggiore della cura. Sì, sì, però certo, diciamo concretamente cosa si può fare? Da 2 anni a questa parte, perché... No, ma è interessante sapere, sì, dica. Sembrava veramente che questa rivoluzione potesse essere sull'onda delle rivoluzioni dei paesi magrebini. Esatto. Potesse portare a un cambiamento, comunque un allentamento del regime di Assad. No, ma infatti è stato molto chiaro, Saverio, interessante la domanda. Grazie. Molto diretta. Allora, non so se padre Dall'Oglio, che sta in Kurdistan, l'ha colta. Padre Dall'Oglio, lei ha detto sì, certo, negli ultimi 2 anni già non si è fatto tanto e abbiamo distrutto tanto, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista concreto della Siria. Però Saverio vuol sapere, anche se in ritardo, che cosa dovrebbe fare l'Europa per concretamente? Sanzioni? Intervento militare? Padre Dall'Oglio. Concretamente occorre che oggi un numero grande di cittadini, tra quelli che ci ascoltano, prendano delle iniziative civili con le loro amministrazioni locali, con i loro sindacati, con le loro associazioni, intervengano su quel ministro, la nostra ministro degli esteri, che si è portata alla testa dell'ignavia europea, irresponsabile verso la rivoluzione siriana e il popolo siriano, chiedendo di prendere una posizione chiara e forte sulla necessità di offrire al popolo siriano la possibilità di difendersi concretamente, cioè militarmente, dal regime. Cioè, lei sta dicendo, mi scusi, padre Dall'Oglio, che Emma Bonino dovrebbe porsi alla guida di una movimento di opinione. No, alla guida dell'ignavia europea. Vabbè, è tra quelli che esercitano l'irresponsabilità europea. E invece, secondo lei, bisognerebbe. Siamo caduti dalla padella nella brace per motivi ideologici, di laicismo ideologico, di islamofobia cordiale, e quindi grazie al ministro. Vediamo se cambia idea. Vediamo sì, se però le chiedo, padre Dall'Oglio, invece secondo lei la civile democratica vince la sua irritabilità nei confronti dell'islam politico. Va bene, però padre, lei invece dice dovrebbero dare la possibilità di difendersi militarmente alle persone che combattono quello che anche lei ha definito il regime mafioso di Assad. Vuol dire armare i ribelli. Ma sono è più di un anno e mezzo che parliamo della necessità morale di scegliere tra un intervento diretto come in Libia o un intervento indiretto attraverso la scelta delle armi giuste per bloccare il bombardamento sistematico del popolo siriano ed ora anche l'uso dimostrato, è inutile parlare di rischi, i giornalisti, i vostri colleghi eroici del Le Monde lo hanno dimostrato, sì, e hanno l'uso di armi chimiche, hanno portato i campioni di sangue in Europa e hanno dimostrato l'uso del chimico da parte del governo siriano nei confronti del popolo siriano. Ci sta facendo diventare direttamente o indirettamente. No, ma è chiaro. Padre Dall'Oglio, l'abbiamo a scaldare le sedie. No, l'abbiamo capito. Per sapere chi sono i combattenti affidabili, chi sono quelli non affidabili. No, ma questo l'abbiamo capito, padre Dall'Oglio, cioè la sua posizione è chiara, in maniera armare quello che è la contrapposizione al regime che lei più volte ha definito il regime mafioso di Assad. In questo dice anche l'ignavia dell'Europa colpisce. Mimmo Candito, vogliamo prenderla da qui, dal racconto di padre Dall'Oglio, oppure posso chiederti subito per cortesia se si hanno notizie, che immagino già la risposta, perché altrimenti l'avremmo saputo in altri modi, di Domenico Quirico, inviato della Stampa, di cui da ormai oltre un mese non si sa nulla della Siria. Sono passati quasi 60 giorni, no, purtroppo non si sa nulla. I tentativi che sta facendo sul terreno il nostro Ministero degli Esteri con tutti gli uomini e le strutture possibili non hanno però portato alcun risultato, e lo stesso Assad ha detto: noi non abbiamo alcuna informazione al riguardo. Domenico non è l'unico dei giornalisti che sono stati sequestrati, in questo momento non si hanno notizie di altri tre giornalisti, due tedeschi e un americano, e non si hanno notizie per alcuni da 3 mesi, per uno addirittura da 6 mesi. Quindi su di loro purtroppo non vi è alcuna possibilità di accertare, nemmeno andando sul territorio. Ho chiesto al mio direttore se mi autorizzava ad andare a tentare di trovare un filo, ma la situazione è considerata ingestibile, e quello che sta facendo la unità di crisi del Ministero degli Esteri pare finora l'unico percorso possibile. Per quanto riguarda il resto, cioè il giudizio che viene espresso, che è sicuramente un giudizio di ordine culturale e ideologico, la democrazia va difesa e la lotta di chi si batte per una democrazia va sostenuta. Non tiene conto però che vi è un quadro politico estremamente drammatico e di assoluta destabilizzazione, perché quando si dice dobbiamo difendere il popolo iracheno e il popolo siriano, il popolo siriano è anche quello che sta con la parte di Assad. Quindi il diritto dei popoli a determinare la propria scelta va difeso nella sua complessità. Intervenire militarmente dando armi, così come è stato chiesto da parte di Trump, ma in genere da molte posizioni politiche, è sicuramente una delle prospettive aperte, e gli Stati Uniti stessi hanno aperto questa prospettiva, però il rischio per tutti è che queste armi, così come accade in Afghanistan, finiscono poi in mani che destabilizzino ulteriormente quello che è certo. Però Mimmo, che fare? Cioè, in questo momento c'è un assoluto non interventismo, poi non lo so se la diplomazia in qualche modo sta cercando di, però quello che appare è una situazione in cui, mentre in Libia siamo intervenuti, poi uno può giudicare o no in maniera positiva positiva o meno. In Iraq addirittura abbiamo fatto la coalizione internazionale, cioè lì in Siria l'atteggiamento è: ci sono 100.000 persone morte nell'ultimo anno e mezzo e noi si sta qui con le mani in mano. Detto che non so quale sia, quale possa essere la soluzione. Non credo di averle nemmeno io fra le mani. In questi casi l'unica possibilità è quella di un'azione diplomatica, operando però all'interno poi anche di strutture che non sono necessariamente ufficiali. Cioè, voglio dire, armi in questo momento ai ribelli siriani sono state fornite ad abbondanza. Naturalmente questo che viene ultimamente definito come la scelta fatta dagli francesi e dagli inglesi di una sorta di rottura dell'embargo ufficiale, quindi la possibilità di un flusso ulteriore di armi anche più potenti e più efficaci dal punto di vista del contesto militare, ebbe un passo ulteriore che è stato compiuto. Quindi l'ignavia di cui parla Padre Zuoldo forse è un giudizio eccessivo. Vi è una consapevolezza politica di cui le ragioni morali certamente non possono farsi carico. Weber diceva che vi è un'etica della responsabilità e vi è un'etica della convenienza, e purtroppo in base a questo si agisce. Molti ci scrivono, e qui è il punto da cui voglio partire dopo le informazioni sul traffico, una domanda che voglio girare anche a Padre Dall'Oglio. Molti ci scrivono: beh, ma in Siria banalmente non c'è il petrolio, in questo momento non sono impegnati in prima persona gli americani e quindi ecco che non fa notizia, almeno in Italia. Non so se è una visione molto puerile o una visione molto terra terra, ma questa è la domanda che giriamo a Padre Dall'Oglio dopo il traffico. Allora, questa domanda, banalmente non c'è petrolio e dunque non se ne parla, vorrei prima la giro in realtà a Mimmo Candito, che so che ci deve lasciare qualche minuto prima, e poi a Padre Dall'Oglio. Mimmo Candito, è una lettura, come dire, banalmente piatta piatta oppure ha un suo senso? No, non è piatta piatta. Noi sappiamo quali sono le regole che determinano il nostro mestiere, cioè io lo sappiamo perfettamente, quindi sicuramente quando ci sono interessi forti in campo si accendono tutte le attenzioni, però mi pare che non sia vero questo giudizio, non sia completamente fondato. Il fatto stesso che Domenico sia ancora sequestrato giù insieme ad altri giornalisti vuol dire che qualcosa si fa. Certamente si potrebbe dare maggiore attenzione, comunque resta il problema di fondo, non vi è dubbio che quando vi sono interessi forti coinvolti i media vengono spinti a prestare molta più attenzione alle forze in campo, però credo che sul problema siriano non vi sia disattenzione, su questo io non mi trovo d'accordo. No. Non si trovi d'accordo. Intanto io voglio cogliere, quando tu hai detto Domenico Quirico che si trova ancora sequestrato, voglio cogliere in questo, insomma, un segnale di speranza. Speriamo tutti così, cioè non è bello essere sequestrati, ma non sarebbe bella l'alternativa peggiore, o no? No, non ci pensiamo. Noi per ora ci stiamo battendo tutti quanti per trovare un filo che ci consenta di raggiungere Domenico, esattamente come gli altri giornalisti. Certamente la certo. È uno scontro, sono stati ammazzati finora 22 giornalisti, quindi sicuramente qualcosa di drammatico avviene sul terreno. Però è compito dei giornalisti esserci, e noi cerchiamo di fare in modo di poter continuare questo nostro lavoro e recuperare i nostri colleghi che in questo momento non danno ancora notizie. Grazie Mimmo Candito. Intanto grazie, voglio Padre Dall'Oglio, lei sai che molti ascoltatori ci mandano messaggi anche in diretta al 349-238-6666 e alcuni la criticano per questa posizione, a dire in qualche modo, che io traduco così, armiamo anche coloro che vogliono abbattere il regime Assad, armiamo in senso lato, cioè troviamo il modo per dare le armi per combattere. Dicono molti, ma insomma, detto da un gesuita, da un sacerdote, da un prete, fa un po' specie, Padre Dall'Oglio. Faccia specie. Intanto tutti coloro che ci ascoltano pagano le tasse d'un governo armato, anche la signora Bonino sta seduta ad un tavolo di governo con un ministro della difesa, che io ne sappia, e nel sud del Libano ci sono dei soldati italiani che tra l'altro hanno trovato il modo di convivere tranquillamente con il partito di Dio sciita libanese utilizzato dall'Iran e combattuto attraverso le sanzioni europee, e quindi voglio dire, qui ci sono due pesi, due misure. Se ci fosse qualcosa da fare sarebbe intanto la decenza ritirare i soldati italiani dal Libano, visto che il partner libanese è in corso, sta effettivamente invadendo con migliaia di miliziani iperarmati la Siria. Quindi penso che il governo italiano dovrebbe dar prova di responsabilità. Da questo punto di vista. Se l'idea di un gesuita, di un religioso, è di essere delle mammolette incapaci di analisi politica e solo voce dei civili massacrati ai quali si offre qualche attenzione. No, no, no, ma infatti non è così, non è così. No, ma infatti io l'ho chiamata perché sappiamo la sua capacità di analizzare un paese nel quale peraltro ha vissuto per 30 anni. Senta, padre Dall'Oglio, mi faccio dare la linea, ci ha chiamato Faisal dalla provincia di Roma, la pronuncia è giusta, Faisal? Sì, sì, buongiorno, che leggo, buongiorno. Mi dicono dalla redazione essere siriano, lei è siriano? Io sono italiano e di origine siriana. Di origine siriana, dica sì, allora. Sì, sono come Paolo Dell'Oglio che è italiano, siriano di origine italiana. Certo, dica cosa ne pensa di quello che sta succedendo nel suo paese, anche il suo paese. Se vuole che le dica, io vorrei che i siriani, il popolo siriano non pagasse l'errore o è presunti tale commessi in Iraq, in Afghanistan, in Libia, in Egitto se volete. Io non credo che Hezbollah che entra in Siria entra senza il tacito accordo con le altre potenze comprese quelle occidentali. Quando si è fatto l'embargo contro le armi in Siria, si è fatto l'embargo contro i siriani. Sì, non ricordiamo, governo, ricordiamo perché... Faisal, per gli ascoltatori, Hezbollah in questo momento, la milizia filosciita che opera in Libano e che sarebbe finanziata anche dall'Iran, in questo momento è a fianco del regime di Assad nei combattimenti. Questo e diciamo che raccoglie milizie irachene, iraniane e di tutti i paesi del Golfo, sì. I siriani si dice, voi avete fra le vostre file... ci sono degli estremisti che sono appartenenti al Qaeda, eccetera. È dimostrabile, dico dimostrabile, che questi erano al soldo di questo regime che li faceva muovere in Iraq contro il regime iracheno creato dopo l'invasione americana e che combattevano contro l'esercito americano e l'hanno spostato poi in Libano e nelle Nazioni Unite oggi. Sì. Ci sono denunce da parte del governo italiano, iracheno attuale contro la Siria per l'uso di queste bande, i quali sono trasferite dall'Iraq e combattono lì a fare le spie fra le file dei rivoltosi. Sì. Tutti i giorni. Però dice a favore del regime. A favore del regime e da noi vengono rinfacciati che noi abbiamo l'estremità. La Siria, un paese laico da sempre, Paolo Dell'Oglio ne sa qualcosa e lui non sarebbe mai definito un siriano di origine italiana se fossero di quella cosa che viene definita tutti i giorni come terrorismo. Perché non è terrorista. Il terrorismo, quando è arrivato questo uomo cacciato dal regime in Siria, dalla Siria, è arrivato in Italia, si è accerchiato, non si è potuto fare nulla, lui ha protestato contro tutti quei sistemi per cui il regime ha messo tutto il suo peso, lo sa che il 15 di giugno qua si radunano tutti gli estremi destre alla Casa Pound di Roma. L'ho letto ieri di questa manifestazione, però Faisal, questa è una cosa che succederà il 15 giugno, leggevo di questa manifestazione a Roma organizzata anche da movimenti vicini a Casa Pound a favore del regime di Assad, ma questo l'ho letto così dai giornali, poi vedremo, il 15 giugno arriverà. Padre Paolo Dall'Oglio, noi abbiamo 30 secondi per chiudere, noi la richiameremo quando tratteremo questo tema. Lei perché è stato espulso dalla Siria, se ce lo può dire in 30 secondi? Perché ho cercato di dire la verità e ho cercato di difendere i miei amici, i giovani siriani, cristiani, musulmani, alawiti, drusi, democratici che chiedono libertà in nome dei diritti fondamentali della persona umana. Ho detto la verità e sono stato cacciato. Questa è la pura semplice verità. Non c'è difficoltà. Un caro saluto all'amico Faisal che è intervenuto appena un minuto fa e di nuovo un appello agli italiani che ci ascoltano nonostante il traffico complicato e le grandi difficoltà della società italiana, si rendano conto che anche i destini economici dell'Italia dipendono anche da queste vicende. Ma è così. È così. Io, padre Dall'Oglio, la devo ringraziare e salutare. Mi fermo qui. Potete riascoltare tutto sul sito radio24.it. L'appuntamento è rinnovato a domattina alle 6:30. 24 mattino.